Quando ero un ragazzo di 10-12 anni, e quindi 50-60 anni fa, era molto facile sentire i sacerdoti, soprattutto i grandi predicatori che venivano nelle parrocchie, parlare della morte e soprattutto nelle prediche serali, citare stolto, questa notte morirai. E quello che hai preparato di chi sarà? Noi tutti si andava a casa, insomma, con una certa roba e con un po' di paura, un po' di decisione di non morire in peccato mortale. Poi, a un certo punto, è scomparso totalmente questo modo di predicare. Probabilmente si è pensato che non bisognava sconvolgere, le persone. E i tempi diventavano moderni e questo era medioevo, totalmente scomparso. Fino a che oggi temo che nessuno delle persone più giovani ricordi questa parabola. Uno della folla disse a Gesù, Luca 12: Maestro, dia a mio fratello di dividere con me l'eredità. O uomo, e chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? Fate attenzione, tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Mamma mia, Evangelo, Evangelo questo, non passerà una virgola. Anche se è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Oh caro sacerdote, predica, predica alla tua gente questo, non aver paura di allontanare la gente, gli rendi un servizio. E poi racconta la parabola di un uomo ricco che ha un raccolto abbondante, non sa dove mettere tutta questa grazia di Dio. Allora dice, faccio un bel piano edilizio, butto giù i magazzini vecchi, metto dei silos, metto delle cose nuove. E poi dirò a me stesso, ormai c'hai una scorta che non finisce più. Riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma qui interviene Gesù e gli dice, stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà? Cari amici, è formidabile sta parola, eh? Stolto. Stanotte morirai. E quello che hai preparato a chi va? Scusate amici, voglio fermarmi un istante a ragionare su questo. Perché è vero che si muore ancora all'improvviso, sapete? È vero perché se dovessimo guardare i registri delle morti parrocchiali, credo che troveremmo una buona, una discreta quantità di morti improvvise, comprese purtroppo quelle dei suicidi. Oppure di gente morta per un infarto, per un ictus, per un incidente stradale. Quanta gente muore all'improvviso. E questa gente aveva dei conti in banca, aveva a chi vanno? Quello che hai preparato, di chi sarà? Se hai famiglia, va alla tua famiglia. Ma conosco diversa gente sola e i nipoti faranno la gara a me, a te, è mio e tuo, lo zio, il nonno mi aveva detto che, mi aveva promesso che, mi ha detto per far studiare i bambini. Oh, cari amici, cari amici. Stolto, questa notte morirai. Ora, per non spaventare voi, vi parlo che ultimamente io ho avuto tre amici in 6 mesi morti. Don Stefano, che vanno a chiamarlo per la messa che è in ritardo, e lo trovano nel suo studio per terra. Don Ferruccio, che da Torino va a far vacanza sul Veneto. In giro tranquillo, la mia età, in bicicletta, Uno di pari età lo inchioda sul muro. Se finì. E Don Graziano, 46 anni, in giro con i ragazzi, in campeggio, mette un piede in fallo, va giù per 150 metri e non c'è più. Gente che muore all'improvviso. Non lo dico a voi amici, ma lo dico sì a voi. Stolto. Puoi morire all'improvviso. E i soldi che hai da parte, secondo me ti converrebbe fare due cose. Primo, fare un bel testamento, ma subito, non lasciar finire questo mese. Perché i tuoi non litighino. Secondo, se hai tanti soldi, comincia a regalarne un bel po' mentre sei vivo. E poi lascerai il resto in eredità a qualche istituzione. Può essere religiosa, può essere civile, può essere. Tanto gli altri di te si dimenticheranno. Se li lasci alla Chiesa con l'incarico di far dirti una messa al mese per un certo numero di anni, almeno sarai suffragato. Coraggio, stolto, questa notte puoi morire. E allora, quello che hai messo da parte, a chi andrà? Non solo questo, amici. Vorrei riflettere un'altra cosa. Stolto, è 20 anni che non parli con tuo fratello. Se muori all'improvviso, muori con questo peso sul cuore, sei nelle mani del maligno. Il perdono viene da Dio, la vendetta viene da Satana. Vuoi presentarti così a Dio? Ma piglia in mano non il telefono, se no fai l'ennesima litigata. Piglia in mano il cellulare e manda un messaggio. Dici: guarda, io sento proprio il desiderio di chiederti scusa. Non dire di far pace, perché quell'altro potrebbe dirti: ah, io non c'ho mica niente. Di far pace con te, ti chiedo scusa. Perché altrimenti presentarsi così al Signore, prima che il purgatorio ci molli, ne passeranno di anni. E infine un'ultima cosa, magari vivi in peccato mortale. Quanti peccati mortali dalle messe saltate agli adulteri. E se tu vivi con una donna che non è tua sposa ed era sposata, tu eri sposato. Tu chiamala come vuoi, il Vangelo lo chiama adulterio, lo chiama così il Vangelo, no? Non prendertela con me. E allora contatta un prete prima di morire, oppure chiedi perdono a Gesù e poi vivi in castità. E poi pensa che hai l'anima, fratello, pensa che hai l'anima. E si può morire anche senza preavviso. Ecco, caro fratello, cara sorella, adesso, grazie a questo insegnamento che ti ho dato, credo di essermi guadagnato 10 Ave Marie come grazie da parte tua. 10 Ave Marie. Ciao!